Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Sono tornata per darmi una possibilità e darla anche al mio paese di poter restituire un po' tutto quello che il mio paese mi aveva dato nella fase di formazione, per poter vedere effettivamente cosa era possibile fare per un italiano dopo tanti anni fuori dal paese e quali erano le potenzialità che secondo me rimangono alte seppur nelle difficoltà del nostro paese. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci della nuova emigrazione. Un'iniezione di ottimismo per cominciare. La carica ce la fornisce Angela Bortoluzzi, 37 anni dell'Associazione Trevisani nel Mondo. Angela è rientrata dal Cile dopo un quinquennio di lavoro come insegnante all'estero. L'abbiamo incontrata al recente Festival della Statistica di Treviso. Ora sogna di poter proseguire la propria carriera qui, senza troppe complicazioni burocratiche, possibilmente. Noi invece prendiamo la rotta della Francia, restate sintonizzati. La frase della settimana è copyright del ministro del lavoro Poletti. Il nostro obiettivo è tornare a fare dell'Italia un posto dove vale la pena stare e per i giovani degli altri paesi venire qui. L'Italia ha una storia di giovani che venivano a studiare nelle nostre università. Abbiamo bisogno di ricostruire questo dato. Poletti ha sottolineato che non dobbiamo guardare questi fenomeni solo per la parte problematica, ma anche per le opportunità. È normale, anzi è un bene, il fatto che ci sia una predisposizione a fare esperienze, a muoversi, a vedere il mondo, conoscere più cose. L'importante, ha sottolineato, è che questa sia una scelta di libertà. Ma quanto questa nostra Italia è un paese di raccomandati e quanto la raccomandazione, intesa nel senso più deleterio del termine, priva i nostri giovani più meritevoli proprio di questa libertà di trovare la propria strada nella penisola? Due dati ci fanno riflettere. Il primo è la ricerca Giovani Futuro e Lavoro promossa dal progetto Non ci ferma nessuno. Uno studente su due ritiene necessaria la raccomandazione per lavorare. La maggior parte è convinta che le spintarelle servano più nel settore pubblico che nel privato. E secondo l'Istat, la ricerca dell'impiego in Italia è affidata soprattutto ai canali informali. L'89% delle persone si rivolge ad amici, parenti e conoscenti. Davvero un sistema, lasciatecelo dire, preistorico. L'unica cosa che sappiamo per certo è che i veri talenti italiani sono sempre più aperti a esplorare opportunità all'estero quando i figli e amici di costruiscono loro la strada nella penisola. Secondo me l'Italia non investe abbastanza sui giovani, quindi non investendo non dà né fiducia né responsabilità. Bisogna credere anche nella capacità di responsabilizzarsi dei giovani. Silvia Lista, 27 anni, una giovane architetto start-up per distanza a Parigi. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura gli ultimi dati sull'emigrazione pubblicati dalla Fondazione Migrantes con rapporto italiani nel mondo. Aumentano gli italiani che si trasferiscono all'estero. Nel 2014 gli espatri sono stati oltre 101.000, con una crescita del 7,6% rispetto al 2013. A fare le valigie in prevalenza uomini non sposati tra i 18 e i 34 anni. Sono partiti soprattutto dal nord Italia. La meta preferita è stata la Germania, a seguire la Gran Bretagna. Negli ultimi anni, si legge nel rapporto, il fenomeno dell'emigrazione per ragioni lavorative tra i laureati è in crescita e il titolo di studio posseduto risulta più efficace nella ricerca di lavoro per chi si è trasferito all'estero. Nell'arco dell'ultimo decennio l'emigrazione italiana è cresciuta notevolmente, con un incremento pari al 49%. E qual è la propensione dei giovani italiani verso l'emigrazione? Quanti giovani della penisola emigrano e qual è il saldo tra arrivi e partenze paragonato all'Europa? La banca dati Young Europeans di Eurostat, riferita al 2013, è una preziosa miniera di informazioni, tra le quali ha indagato Federica Frola. Sentiamo cosa ha scoperto. 16.751 giovani italiani tra i 20 e i 29 anni si sono trasferiti all'estero per oltre un anno. Lo riporta il sito dell'Eurostat, l'ufficio statistico europeo. Dai dati emerge anche che più del 50% di loro ha scelto un paese europeo come meta. La più ambita è la Germania, seguita da Gran Bretagna, Francia e Belgio. Sono invece 23.000 gli under 30 da tutta Europa che l'Italia ha accolto nel 2013. Così la bilancia per il nostro paese è positiva, 7.000 giovani in più. La maggior parte degli arrivi, 18.000, viene dalla Romania, la quale insieme alla Gran Bretagna è il paese con il più alto numero di giovani con la valigia. Nel 2013, infatti, in oltre 50.000 rumeni e 56.000 inglesi si sono trasferiti. In compenso, però, in Inghilterra ne sono arrivati 122.000. Saldo più che positivo anche per la Germania, che ha visto partire 23.000 ragazzi e arrivarne 117.000. In generale risultano guadagnarci anche Austria e Belgio. La prima ha aumentato la popolazione under 30 di 18.000 ragazzi, mentre il Belgio di 14.000. In Spagna invece la situazione è simile a quella italiana, ma il saldo è più positivo. Ne hanno accolti 12.000. D'altronde, con il 67,6%, è il paese europeo che assume più giovani, under 25, a tempo determinato. Il lavoro è infatti uno dei due motivi principali per cui un giovane decide di trasferirsi. L'altro è lo studio. Partendo dal lavoro, grazie all'infografica Young Europeans, scopriamo che in Italia solo il 27,5% dei 23enni è assunto, contro una media europea del 48,4%. Il dato occupazionale sale se parliamo di trentenni, ma resta ampio il divario con il resto dell'Europa. Il 51,6% italiano ha un lavoro, contro il 66,4% degli altri paesi europei. Infine, anche in tema di formazione, l'Italia deve fare molta strada, considerando che la media europea di laurea under 30 è pari al 40% contro il nostro 24%, e sono le donne in Italia a laurearsi prima dei coetanei maschi. È in maggior numero, il 30,5% delle under 30 infatti si laurea contro il 18,4% degli uomini. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Francia. Lo facciamo per parlare di architettura. A Parigi le opportunità sono maggiori per le donne architetto? Nome: Silvia. Cognome: Lista. Età: 27 anni. Città di origine: Salerno. Studi: laurea in architettura presso il Politecnico di Milano. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2013. Per andare dove? A Parigi. Perché? Per continuare i miei studi con questo master di ricerca. Quale lavoro svolgi attualmente? Architetto. Dove? Presso la mia società, Studio a Mètre Carré a Parigi. Tornerai? Per il momento no, magari in futuro, non si sa. J'ai pas choisi de naître ici. Entre vignerons, c'est la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Per me una ricerca anche nelle discipline architettoniche deve essere indipendente, non può essere sempre imposta dall'alto. In Italia c'è, a mio avviso, troppo dirigismo da parte del corpo docente e si dà poco valore all'iniziativa dello studente, del ricercatore. Così dichiaravi, Silvia, in una recente intervista. È questa, se vogliamo, la radice di tutti i mali, l'incapacità o non volontà di mettere l'iniziativa dello studente al centro, la paura di confrontarsi con le idee e lo spirito critico dei giovani in qualsiasi disciplina? Il problema del dirigismo in realtà riguarda effettivamente le persone che decidono come me di continuare gli studi dopo la laurea. Credo che effettivamente, non conosco bene la realtà italiana della ricerca perché non ci sono entrata, ma credo che effettivamente all'estero ci sia una maggiore flessibilità ed orizzontalità tra il ricercatore e l'istituzione. Questo è importante. La tua storia prende le mosse da un paese del Cilento, in provincia di Salerno, un posto bellissimo che hai però dovuto lasciare quando ti sei iscritta all'università seguendo tua sorella. Perché sei andata a Milano? Chiaramente è stata una scelta obbligata perché appunto c'era già mia sorella, ma in ogni caso è andata bene. Credo che il Politecnico di Milano resti comunque una delle migliori facoltà di architettura in Italia. A posteriori non mi sembra che l'offerta formativa che ho avuto in Italia possa considerarsi di scarsa qualità, dici. Tuttavia c'è un ma: la mancanza di una vera pluridisciplinarietà. In che senso? Io ho sempre notato una certa volontà di non ibridare, di non sporcare troppo la disciplina, la formazione architettonica con delle divagazioni in altri ambiti culturali che non siano poi strettamente di supporto tecnico. Siamo chiusi a compartimenti stagni, mi sembra di capire. Sì, certamente è un rischio che si prende, perché quando si parla di pluridisciplinarità ci si confronta sicuramente con dei territori di frontiera, diciamo, in delle zone in cui si rischia di perdere la concretezza del progetto, e comunque è difficile mantenere anche una coerenza con altri ambiti. Però è un peccato che non si esplorino queste possibilità, in quanto la formazione dell'architetto, a mio avviso, apriamoci mentalmente, questo è il messaggio. Esatto, sì. Anche sulla base delle esperienze successive, quale voto daresti alla formazione in Italia da 1 a 10? Io credo che la formazione sia comunque rimanga di base molto solida e quindi 7,5-8. Okay. A Milano hai fatto anche uno stage. Che idea ti sei fatta del mondo del lavoro italiano? I miei stage sono stati quelli curricolari richiesti durante l'università, e ho fatto poi uno stage in seguito, però ecco, non me la sento di dare un giudizio perché le esperienze rimangono comunque abbastanza limitate. Penso che ci siano persone più adatte di me a dare un giudizio su questo. Perché una volta laureata hai scelto di guardare all'estero e perché proprio Parigi? Non parlavi francese, tra l'altro. Io ho deciso di continuare, avevo l'esigenza di integrare la mia formazione, quindi ho cominciato a guardarmi in giro in Europa, nei vari programmi appunto post laurea, e alla fine ho trovato questo master all'École Spéciale che si chiama Architecture des Milieux, è un master molto, molto sui generis, perché è un'introduzione agli studi dottorali che propone una sorta di educazione all'ecologia globale. Infatti il termine milieu non è veramente traducibile in italiano. In breve però, perché non hai considerato l'Italia? Perché avevo di base voglia di confrontarmi con altre realtà e nello stesso tempo perché non vedevo un programma altrettanto rispondente alle mie esigenze, alle domande che mi ponevo rispetto alla, al mio futuro professionale, alla mia formazione, al mio modo di vedere la disciplina. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Silvia Lista, giovane architetto e start-upper 27enne di stanza in Francia. Silvia prende il volo per Parigi dopo la laurea, trovando oltre Alpe quegli spazi di libertà e indipendenza che difficilmente avrebbe potuto ottenere qui. Non paga, si lancia nella costituzione di un proprio studio internazionale insieme ad altre giovani colleghe. Tutto questo sarebbe stato possibile nella penisola? Ci chiediamo. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Silvia, cosa hai trovato oltre Alpe in termini di stimoli? Quanto è stato importante il rapporto col mondo accademico, quella comunicazione orizzontale che hai potuto sperimentare in forma diretta con i docenti francesi? È stato radicale, nel senso che non so se sia una peculiarità della formazione che ho seguito, ma ho trovato un rapporto davvero poco gerarchico e molto attento alle esigenze e alle proposte degli studenti, cosa che in Italia effettivamente non avevo trovato. Non avevi trovato, aia. No. Veniamo alla parte più interessante della tua storia, quella che ti vede addirittura trasformarti in start-upper. Come nasce l'idea di aprire un tuo studio di architettura e con chi hai realizzato questa idea? L'idea nasce dall'incontro con due colleghe del master e una di loro, Mabel, una ragazza peruviana, aveva già un'esperienza decennale di lavoro in Francia e aveva già maturato l'idea di aprire la propria società, di lasciare lo studio per cui lavorava e mettere sulla propria società. Quindi abbiamo cominciato a lavorare insieme per dei concorsi e da lì poi è nata l'idea di trasformare questo suo progetto in una SRL, in uno studio associato. Dopodiché si è aggiunta una quarta persona, un'altra ragazza peruviana, ingegnere in questo caso. Tutte straniere alla fine siete? Sì, tutte straniere, Europa e anche oltre Europa. Ecco. Quanto è stato irrisorio il costo di apertura della società e anche a livello burocratico, è stato facile o difficile? La Francia non è un paese particolarmente facile per la burocrazia, però è molto preciso, quindi applicandosi si riesce comunque. Il costo iniziale è abbastanza irrisorio, nel senso che il nostro capitale di base sono 5.000 euro ripartiti secondo le quote azionarie di ciascuno e quindi è abbastanza facile farsi conto. Il vostro studio ha anche una particolarità, no? In cosa vi differenziate dagli altri? Che proponiamo un metodo di ricerca attraverso il progetto Research by Design, in cui indipendentemente dal tipo di intervento e dalla scala del progetto cerchiamo di ritrovare la dimensione umana, perciò il nome a metro carré è l'unità base dello spazio abitato, che cerchiamo di declinare nelle diverse scale, quindi l'attenzione davvero all'individuo. Siete già all'opera perché state già partecipando a diversi concorsi, avete avviato un primo progetto concreto con un comune della periferia di Parigi, però la domanda a cui voglio arrivare è un'altra: perché consideri un eventuale ritorno in Italia un'ipotesi remota? Per il momento mi sento di dover esplorare questa strada. Tornare in Italia in questo momento per me sarebbe una contraddizione, in più il master che ho frequentato mi dà la possibilità di continuare gli studi dottorali qui in Francia e penso che lo farò. E allora la domanda però nasce di conseguenza: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Secondo me l'Italia non investe abbastanza sui giovani, quindi non investendo non dà né fiducia né responsabilità, bisogna credere anche nella capacità di responsabilizzarsi dei giovani. Ci raggiungerò in linea Claudia Mainardi, collega di Silvia, temporaneamente tornata in Italia, chissà ancora per quanto, ma perché infatti ci ha appena detto che è nuovamente rispatriata in Olanda. Buon pomeriggio Claudia. Buon pomeriggio a voi. Allora Claudia, con Silvia condividi la formazione in Italia al Politecnico e condividi anche, ti chiedo, le sue riflessioni sulle criticità del nostro sistema formativo. Sì, in realtà sì, sono pienamente, nel senso che effettivamente tutto ciò che Silvia ha detto non posso che condividerlo. In generale lo trovo appunto un sistema piuttosto vecchio, raramente interessante, in cui preciso a dire, ma molto spesso mi sembra prediligersi una generale mediocrità piuttosto che fare attenzione sulle singolarità degli individui, no? Delle diverse persone, quindi potenziarne le capacità di ognuno. C'è da dire poi che appunto personalmente non dovrei lamentarmi troppo, nel senso che un po' per fortuna, un po' perché io spesso ho cercato, ho avuto la possibilità di effettivamente prendere il meglio che l'università potesse offrirmi. Tra poco ci arriviamo. A differenza di Silvia, ti sei impegnata in Italia entrando in un collettivo di ricerca e progettazione fondato con colleghi dell'università. Allora ti chiedo, c'è spazio nella penisola per iniziative di giovani architetti, un po' come ha fatto poi Silvia in Francia, dove ha trovato un contesto ricettivo? Allora, credo in realtà che la condizione del mio collettivo non possa essere esattamente paragonata a quella di Silvia, nel senso che sono nato da subito come studio, mentre noi abbiamo iniziato anni fa, quando eravamo ancora in università, quasi per gioco, facendo concorsi, divertendoci innanzitutto. La trasformazione del collettivo a studio, con sede fissa, è di pochissimi mesi fa, quindi troppo poco tempo per fare effettivamente un resoconto. Certo, si può dire che Milano ha pro e contro, cioè dalla sua è il fatto che continua a essere una città ricca di stimoli, specialmente nel nostro campo, ma dall'altra parte, proprio perché siamo in tanti, la competizione è maggiore e lo spazio è sicuramente minore rispetto ad altre città. Infatti, o altre condizioni. Tu hai definito Milano come una realtà sempre più difficile da vivere e infatti poi in un primo momento sei espatriata col tuo compagno in direzione Rotterdam, dove avete trovato entrambi lavoro in uno studio internazionale. Quale ambiente professionale avete trovato ad aspettarvi? Quali differenze in positivo e in negativo con Milano, che ricordiamo è comunque considerata una città all'avanguardia in Italia per l'architettura? Da dire che in realtà anche Rotterdam gode più o meno della stessa fama, cioè ovvero il fatto di essere una città piuttosto all'avanguardia in Olanda per l'architettura, tant'è vero che hanno sede i due studi olandesi più noti e altri studi più piccoli di grande qualità. Rotterdam certamente non è una gran bella città, è piuttosto piccola e separata da Milano, è molto noiosa e, come dire, per noi è rappresentato più che altro un compromesso, cioè quella condizione tale per cui riusciamo a mantenerci autonomamente, in cui tutto funziona alla perfezione e in cui però c'è anche qualche possibilità di trovare una minima soddisfazione lavorativa. Allora, poi c'è stata la crisi che ha colpito lo studio olandese dove lavoravi, ti ha costretto pochi mesi fa a tornare in Italia, a provarci qui, però nel frattempo hai di fatto già rifatto le valigie. Allora io ti chiedo perché tornare è così difficile? A maggio ho terminato il lavoro a Rotterdam, sono stato in Olanda lavorando sempre per il mio gruppo a distanza. Tornando a Milano sono rimasta fino a pochi giorni fa appunto, ma davvero sicura di non potermi fermare, perché ahimè le problematiche che mi avevano spinto ad andarmene sussistono. Non è cambiato nulla? Purtroppo a quanto pare no, è comunque molto difficile vivere o anche solo sopravvivere senza essere aiutati. Grazie a Claudia Mainardi, in bocca al lupo per la tua carriera. E torniamo con Silvia Lista, domanda di rito: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Come dimostra anche l'esperienza di Claudia, in realtà secondo me non bisogna pensare all'estero come un Eldorado, le difficoltà ci sono tutte. Quello che ripeto secondo la mia esperienza è che ho visto riconosciuti di più impegno, energia e anche una sorta di passione di mettersi in gioco, come nel mio caso, come imprenditori di se stessi in una sfida, cosa che in Italia è un po' demotivante probabilmente. Ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo una junior manager a Together for Sustainability, sede di Bruxelles, scadenza per CV 19 ottobre, info su tfs-initiative.com. Uno specialista per l'internal audit presso Europol, sede dell'AIA, scadenza per CV dopodomani, info su europol.europa.eu. E infine, un ricercatore in scienza della geobiosfera a Lund in Svezia, scadenza per CV 18 ottobre, info su lu.mynetworkglobal.com. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi parliamo di un sito che è interamente rivolto a chi desidera accogliere opportunità lavorative oltre confine. Il nome dice tutto: Vivi all'estero. Stefano Piergiovanni ne è l'ideatore. Nasce nel settembre del 2009, vivevo in Irlanda, ricevevo un sacco di richieste da amici e conoscenti su come avessi fatto a trovare lavoro all'estero. Visto che le risposte erano sempre più o meno le stesse, ho deciso di mettere tutte queste informazioni in un sito web così da dare direttamente il link invece di stare lì ogni volta a rispondere a ognuno. Quali consigli, indicazioni, informazioni principalmente dai all'interno di Vivi all'Estero? Si è piano piano trasformato il sito da consigli generali a più consigli sul lavoro, perché più che altro è quello importante, la che la gente sta cercando ultimamente, e il consiglio principale è la conoscenza della lingua, inglese importantissimo e poi la lingua della nazione scelta, e poi soprattutto di prepararsi molto bene, prepararsi in settori dove c'è una buona ricerca, come può essere informatica per gli infermieri nel Regno Unito, e diciamo comunque che bisogna un po' valutare cosa si sa fare e cosa sta cercando il mercato in questo momento. Quali sono i paesi dove consiglieresti di trasferirsi quest'anno? È un po' difficile da rispondere in maniera generale, nel senso che in base al tipo di profilo, questa è anche la consulenza che io do, cioè in base al tipo di profilo consiglio alle persone dove puntare, dove andare. Diciamo che parlando in generale, cioè con un profilo classicissimo, cioè di una persona che non si è mai trasferita all'estero e ha un inglese medio senza una professione ben specifica in mano, allora io consiglio di iniziare dalle multinazionali nel Regno Unito, in Irlanda o nei paesi dell'Est Europa che stanno crescendo molto in questo periodo. Immagino ti scrivano anche tanti italiani che magari stanno cercando lavoro all'estero. Allora è interessante capire con te che profilo hanno, che età hanno, che tipo di qualifica hanno, chi ti scrive e dove vuole andare. Il sito è iniziato con persone che avevano un profilo molto simile al mio, ovvero persone che volevano andare all'estero per piacere, per formarsi in maniera diversa, per viaggiare. Ora, diciamo, purtroppo mi stanno contattando tante persone che invece vogliono fare questo passo un po' quasi obbligati, e generalmente sono persone che vanno dai 30 ai 45 anni, non con un ottimo profilo o con una specializzazione in mano, con un inglese medio, e che quindi sono disposti ad iniziare anche dalla ristorazione pur di trovare un lavoro inizialmente. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.viviallestero.com. Un motivo per restare o tornare. Il dottorato di ricerca e il mondo delle imprese si incontrano grazie al progetto PhD iTalents, che permetterà a 136 tra i migliori dottori di ricerca italiani di essere inseriti in imprese che fanno ricerca e innovazione per un periodo triennale. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Confindustria e CRUI ed è finanziato dal Ministero dell'Istruzione. L'ammontare del finanziamento è di 11 milioni, cui si aggiungono 5 milioni di cofinanziamento da parte delle imprese. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di Radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Benefici Fiscali, dibatteteli in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di ottobre. La legge contro esodo viene nei fatti cancellata dalla nuova norma per il rientro dei cervelli, con il bonus fiscale limitato al 30%. Meglio così per fare maggiore chiarezza normativa, o si tratta di un'ingiusta discriminazione verso chi aveva i requisiti per rientrare con la vecchia legge, prorogata per un biennio solo pochi mesi fa e ora soppressa? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi giovanitalenti@radio24.it. Cerchiamo voi. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.